100, ma non ferma il crollo del rublo, almeno lo fa solo per pochi minuti, precipita anche la borsa di Mosca. La beffa natalizia per gli alluvionati, le tasse sospese andranno pagate entro il 22 dicembre e il decreto ha nemmeno una settimana dalla scadenza. Benigni col botto, lo spettacolo sui 10 comandamenti dell'attore toscano totalizza il 33% degli ascolti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, Effetto Giorno, @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure durante la trasmissione potete scriverci anche via sms al 349-238-6666. In apertura, dunque, come d'obbligo e giusto, andiamo in Pakistan, dove sei uomini armati, questo raccontano al momento le cronache, sono entrati in una scuola di Peshawar. Si tratta di talebani che hanno condotto un attacco uccidendo oltre 100 persone, tra queste 80 bambini fra i 7 e i 14 anni. E la voce che sentite è quella di un bambino sfuggito all'attacco. Stavamo studiando, era la quarta ora quando sono iniziati gli spari, racconta. I maestri all'inizio ci hanno detto che era un trapano, ma poi abbiamo sentito i suoni dei combattimenti. Dopo circa un'ora l'esercito è entrato nella scuola e ci ha scortati fuori, ma mentre uscivamo abbiamo visto i corpi dei nostri amici nei corridoi. Questo il racconto. Abbiamo in diretta Alberto Negri del Sole 24 Ore, inviato speciale, esperto di Pakistan, spesso nostro ospite. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Un atto terribile, naturalmente, che già sta subendo, e com'è naturale la condanna internazionale, sono arrivate le parole dure di Cameron, le parole dure naturalmente di Renzi, ed è anche la conferma di una serie di attentati che si sono moltiplicati in quest'ultimo periodo in Pakistan. Ma qui c'è stato un po' un problema, anche perché questo confine tra Pakistan e Afghanistan, Peshawar è una città di confine, nella capitale della zona tribale, di fronte al Khyber Pass, è stato largamente oscurato dall'avanzata del califfato, dalle atroci imprese dell'ISIS, dalla loro diffusione mediatica, e quindi si era un po' perso di vista quello che è un campo di battaglia tra i più sanguinosi della guerra al terrorismo. E i talebani pakistani cosa hanno fatto? Hanno reagito con una sorta di terribile, atroce vendetta alle operazioni militari condotte dall'esercito pakistano in Waziristan negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, e soprattutto forse hanno anche reagito agli accordi tra il Pakistan e gli Stati Uniti proprio nella guerra al terrorismo. Il capo di Stato Maggiore pakistano è andato recentemente a Washington, ha ottenuto altri finanziamenti per miliardi di dollari necessari a mantenere le truppe pakistane, e naturalmente queste operazioni sono viste in maniera assai temuta dai talebani, proprio anche in vista di quello che è il ritiro parziale degli Stati Uniti delle truppe occidentali dall'Afghanistan nel 2015. Questo è un confine bollente e nessuno dovrebbe mai dimenticarlo, purtroppo questo attentato ce lo ricorda. Da quello che ci dici, Alberto, e a questo punto ci soffermiamo sull'analisi, mentre arriva tra l'altro la rivendicazione degli stessi talebani che dicono: abbiamo scelto con attenzione l'obiettivo da colpire, il governo sta prendendo di mira le nostre famiglie e le nostre donne, vogliamo che provino lo stesso dolore, così appunto i talebani. Da quel che ci dici sembra essere anche una sorta di segnale di debolezza dei talebani questo attacco, pur così violento e naturalmente così doloroso. Certo, anche una reazione molto dura, perché come sappiamo bene in quell'area, soprattutto nel Waziristan, c'è la guerra dei droni, quella condotta con gli aerei senza pilota dagli americani, che hanno provocato anche parecchie vittime civili e forti tensioni tra il governo di Washington e Islamabad. I talebani in qualche modo cercano di inserirsi in una sorta di spaccatura che si può provocare, no? Perché la guerra degli americani è comunque sempre impopolare in Pakistan, e d'altra parte il governo pakistano ha la necessità di affermare anche il suo ruolo di potenza regionale. I talebani sono un po' con le spalle al muro, perché le operazioni militari effettivamente hanno condotto dei successi non solo contro di loro, ma anche contro la residua leadership di Al-Qaeda che si trova proprio in quell'area. Grazie, grazie ad Alberto Negri per questa analisi e poi su questa vicenda naturalmente torneremo nel corso della trasmissione. Restiamo in tema di terrorismo, in questo caso di terrorismo internazionale, perché si è chiuso, come sapete, con due vittime il sequestro avvenuto a Sydney mentre l'ISIS minaccia nuovi attacchi. Sono state 24 ore di passione in Australia, iniziate con il sequestro di 17 persone in un bar di Sydney e concluse oggi con il cessato allarme per un pacco sospetto al Ministero degli Esteri di Canberra. Il pacco alla fine si è rivelato innocuo, il sequestro invece si è concluso ben più tragicamente. Nel blitz delle teste di cuoio sono morti due degli ostaggi e il sequestratore, Man Aaron Monis, un profugo iraniano cinquantenne rifugiato in Australia dal 1996. Recentemente si era convertito all'Islam sunnita, da internet inneggiava all'ISIS e minacciava le istituzioni. Le forze dell'ordine lo conoscevano già per delle lettere ingiuriose inviate ai familiari dei soldati australiani caduti in Afghanistan, ma anche per aggressioni sessuali e perché sospettato di aver ucciso la moglie. Uno squilibrato più che un terrorista, secondo il primo ministro australiano Tony Abbott. How can someone who has had such a long and checkered history? Il perché una persona con una storia simile alle spalle potesse muoversi liberamente va indagato con calma e precisione, ha poi aggiunto Abbott. Even if this individual had been monitored 24 hours a day. Ma se anche fosse stato tenuto d'occhio 24 ore su 24, è possibile che sarebbe riuscito a colpire lo stesso. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Passiamo adesso a parlare della crisi valutaria che sta investendo la Russia. Proprio in questi minuti è stata sfondata quota 95, ossia ci vogliono 95 rubli per comprare un euro. Considerate che questa mattina all'apertura erano 72, c'è stato un intervento massiccio della Banca Centrale Russa che però non è servito a nulla. Ci colleghiamo con Antonella Scott del Sole 24 Ore. Antonella, buongiorno. Buongiorno, sì, ormai lo chiamano il giorno del giudizio per il rublo, questo di oggi, perché la mossa, si può dire disperata, della Banca Centrale che la notte scorsa, dopo una riunione d'emergenza, ha portato i tassi di interesse addirittura dal 10,5 al 17% nel tentativo di interrompere il crollo del rublo. È una mossa però che ha avuto un effetto solo per pochi minuti e dopo aver ripreso fiato all'apertura la moneta russa sia sull'euro che sul dollaro è tornata a precipitare e continua a macinare nuovi minimi assoluti, appunto come dicevi oltre quota 95 sull'euro, quindi ormai diventa quasi realistico, ormai realistico pensare che sfondi addirittura quota 100 e oltre 76 rubli per un dollaro, sono ormai valori, il valore del rublo ormai è più che dimezzato rispetto all'anno scorso, mentre il petrolio scende proprio in queste ore, è sceso sotto la soglia dei $60 al barile, travolta anche la borsa di Mosca che è arrivata a perdere più del 10%. E ora il governo scrive su Twitter, l'ex ministro delle finanze Alexei Fudrin deve decidere misure che ristabiliscano la fiducia degli investitori nell'economia, anche perché la banca centrale credo aver esaurito le armi a sua disposizione, a meno che non si pensi a controlli sui capitali, cosa che il governatore della Banca Centrale questa mattina, Elvira Nabiullina, ha escluso. E ora l'attesa però è per la maratona televisiva con cui Putin, una lunga maratona con cui si presenta ai russi giovedì, si presenterà giovedì. E sicuramente questo sarà il momento in cui dovrà cercare di spiegare che cosa intende fare. Grazie, grazie Antonella Scott per questi aggiornamenti. Si parlava del prezzo del greggio, ebbene il WTI che era quotato a New York è già sotto quota $55 al barile, a 54,38. Poi torneremo naturalmente sui mercati più avanti alle 13.30 come sempre. Ritorniamo alle vicende italiane, in realtà collegate con l'estero in questo caso, perché parliamo dei due Marò. Altro duro colpo per i due Marò e per il nostro paese impegnato in una trattativa diplomatica con l'India che riesca a superare i cavilli giudiziari. La Corte Suprema indiana ha infatti respinto le richieste di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone per attenuare le loro condizioni di libertà dietro cauzione. In particolare Latorre aveva chiesto di prolungare di altri 4 mesi la convalescenza in Italia dopo l'ictus che lo aveva colpito a settembre, permesso che scadrà a metà gennaio. Girone invece aveva richiesto di poter tornare a casa in Puglia per 3 mesi, comprese le festività di Natale, che vorrebbe trascorrere con la sua famiglia. Il presidente della Corte ha giustificato il rifiuto con il fatto che l'inchiesta non è ancora finita e che i capi d'accusa non sono ancora stati presentati. Anche le vittime, ha concluso, hanno i loro diritti. A pesare, forse, nella decisione della Corte Suprema, il precedente del Natale 2013, quando il governo italiano annullò il previsto ritorno dei due Marò in India, provocando un inasprimento della crisi solo parzialmente mitigato dalla decisione, infine, del nostro governo di tornare sui propri passi e rispedirli indietro. I due Marò sono trattenuti in India da quasi 3 anni, con l'accusa di aver ucciso 2 pescatori indiani scambiati per pirati. Il processo deve ancora prendere il via. Immediate le reazioni politiche. Meloni e Gasparri parlano di un'Italia umiliata che si fa deridere. Il premier Renzi, sollecitato a riferire in Parlamento dal presidente della Commissione Difesa della Camera, Elio Vito di Forza Italia, ha annunciato che il governo si impegnerà a partecipare ai lavori delle commissioni esteri e difesa sul caso dei Marò. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato il giorno della presentazione del Consiglio europeo in Parlamento e del relativo dibattito. Sentiamo. L'Europa è al bivio, cambi o è perduta, avverte Matteo Renzi parlando alla Camera. Il Premier scalda i motori dunque in vista del Consiglio europeo di domani, annuncia di essere pronta a dare battaglia affinché l'Europa adotti una politica di investimenti nuova. Per la prima volta si dice ok, se procedi a degli investimenti che siano investimenti condivisi puoi scorporare dal patto. Non è sufficiente. Continuerò all'interno del partito politico europeo di cui faccio parte, che su questi temi ha ancora una timidezza incomprensibile. E all'interno del Consiglio europeo a combattere perché gli investimenti che servono a ridurre la bolletta energetica in Italia possano essere esclusi, che gli investimenti in banda larga possano essere esclusi. Uno sguardo anche alle vicende italiane, da Renzi arriva una risposta a quella che definisce una reazione davvero sorprendente, profondamente trasversale alla candidatura per le Olimpiadi 2024. Credo che se c'è chi ruba bisogna avere il coraggio di intervenire, di mandarli in galera, di alzare le pene per evitare i patteggiamenti, ma sentirsi dire l'Italia non può fare questo perché qualcuno non è all'altezza di questa sfida frustra le speranze dei nostri concittadini. Infine spazio anche per un affondo nei confronti dei 5 Stelle, non vi hanno eletto per insultare o buttare tutto in caciara. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ma al centro delle vicende politiche in queste ore resta la corsa per il Quirinale, soprattutto dopo l'incontro di ieri tra lo stesso Presidente del Consiglio Renzi e Romano Prodi. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Corsa per il Quirinale, Simone, che è indubbiamente aperta ma che non vede per il momento nessun nome iscritto ufficialmente. Certamente il faccia a faccia di ieri a Palazzo Chigi tra Renzi e Prodi ha aperto la strada a tante interpretazioni, con il professore che ai suoi collaboratori avrebbe però ribadito di non essere disponibile ad un incarico. Ma il solo aver visto l'ex presidente della Commissione europea mette Renzi al centro di tante ipotesi e crea agitazione tanto nella minoranza PD quanto in Forza Italia. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi, qualora l'attuale premier puntasse su Prodi avrebbe poi come conseguenza quella di tornare alle urne venendo meno il patto del Nazareno con Berlusconi. Si voterebbe a quel punto con il Mattarellum, sistema in uso ai tempi d'oro dell'Ulivo, un sistema senza preferenze che non potrebbe essere sconfessato dai vari Fassine e Civati. Il messaggio al Cavaliere dall'altra parte sarebbe quello di rispettare le intese sulle riforme se vuole evitare l'arrivo proprio di Prodi al Quirinale. In tutto ciò resta il faro puntato su quello che andrà a fare nelle prossime settimane l'attuale Presidente della Repubblica. Oggi se ne saprà forse di più. Napolitano alle 17.30 farà il tradizionale saluto nella cerimonia per gli auguri di fine anno con le alte cariche dello Stato. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, gli aggiornamenti sull'inchiesta a Roma Capitale con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Non solo le soffiate dagli agenti ma anche gli avvisi dalla stampa, proprio come nelle principali e più tradizionali inchieste di mafia, con le fughe di notizie hanno dovuto fare i conti anche i magistrati impegnati su Mafia Capitale. Massimo Carminati, infatti, il boss dell'organizzazione romana, sarebbe stato informato di essere sotto controllo non solo dai militari, come già venuto fuori subito con questa inchiesta, ma anche dall'attuale direttore del Tempo, già a lungo cronista giudiziario del giornale, Marco Chiocci, che lo avrebbe incontrato attraverso il suo legale. Il giornalista gli avrebbe detto dell'attività di ascolto sul suo conto, una soffiata che gli vale ora l'accusa di favoreggiamento, anche perché Carminati nelle ultime settimane prima degli arresti del 2 dicembre, a quanto annota il ROS, cambiò le sue abitudini, cercò di ridurre l'uso del telefono e provò anche a depistare, situazioni che facevano temere una fuga, anche perché la richiesta di arresto della procura era di inizio agosto. Il giudice giudice ha invece firmato l'ordinanza di custodia cautelare solo a inizio dicembre. Dunque nel maxi blitz che ha fatto crollare il mondo di mezzo, anche per questo Carminati è stato il primo ad essere catturato. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, restiamo sui temi di criminalità organizzata. Con un blitz compiuto all'alba, i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo hanno arrestato Vincenzo Graziano, il boss di Cosa Nostra, ritenuto il nuovo reggente del mandamento di Resuttana. Dopo l'arresto del capo Vito Galatolo, per il neopentito Galatolo, Graziano avrebbe procurato l'esplosivo, il tritolo, per l'attentato al PM Nino Di Matteo, uno dei magistrati del processo Stato-Mafia. Al momento però il tritolo non è stato trovato. Passiamo però adesso ad un'altra grande operazione anti-ndrangheta a Milano. Le mani dell'andrangheta su Milano purtroppo sono cosa nota. Numerose inchieste, le ultime recentissime a pochi mesi dall'Expo, hanno rivelato il legame tra criminalità organizzata, appalti e lavori pubblici. Questa volta a finire nel mirino della procura distrettuale antimafia è uno dei principali clan di Reggio Calabria, ma operante nel capoluogo lombardo, la cosca Libri De Stefano Tegano. 59 gli arresti, 400 i militari coinvolti, varie le accuse: traffico di droga, di armi, estorsione e così via. Le cosche, spiegano i carabinieri, fornivano protezione agli imprenditori locali, condizionando l'aggiudicazione di contratti anche grazie alla corruzione di pubblici ufficiali. Ma c'è un inedito: il tentativo di entrare a San Siro con un'azienda di catering. Un imprenditore milanese, prima sotto ricatto, poi diventato complice dei criminali, avrebbe cercato di screditare una società che gestisce un bar dentro lo stadio per favorire uno dei suoi cosiddetti amici. Il tutto grazie al rapporto falso di un carabiniere, poi arrestato. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di lasciare lo spazio alle notizie che arrivano da Strade e Autostrade, un aggiornamento sulla situazione sui mercati, soprattutto per quanto riguarda i mercati valutari e la Russia, perché pochi istanti fa si è toccata quota 100 nel rapporto tra rublo ed euro, una soglia che poi dopo essere stata toccata c'è stato un ritocco al ribasso. In questo momento ci vogliono 97 rubli per comprare un euro in una crisi valutaria, quella russa, che evidentemente prosegue. Ci ritroviamo tra un attimo, parleremo della vicenda degli alluvionati che hanno visto la conferma della necessità di pagare i tributi entro il 22 dicembre, naturalmente tra molte proteste, poi del grande successo di Benigni ieri con i 10 comandamenti, ma prima il traffico. L'una dopo l'una scorre il tempo amico. Dalle piccole botti di legno, le prime gocce per il mastro distillatore. Ecco le 18 lune, grappa stravecchia, le 18 lune, l'arte di saper aspettare. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Se sei un'azienda, cerchi agenti, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Se cerchi agenti di commercio, vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Oh yeah! Secondo te, limone di Siracusa IGP va detto all'inizio o alla fine? Boh, lo direi alla fine. E rimedio naturale? Meglio adesso? Lo dico io. Limone di Siracusa IGP. Sano, buono, naturale. Strade in diretta. Sulla 22 del Brennero segnaliamo code di 2 km per un veicolo fermo tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena in direzione Brennero. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, code tra via Isacco Newton e Parco dei Medici in direzione Fiumicino per un incidente, mentre sulla 14 Adriatica code smaltimento in direzione Bari tra Ancona Nord e Ancona Sud dopo un incidente ora risolto. A Milano resta trafficato il tratto urbano della 4, c'è coda verso Torino tra Monza e Viale Certosa. Infine segnaliamo attorno a Bergamo code sulla carreggiata nord della statale 671 del Colle di Tenda tra Grassobbio e Curno. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nonostante la Banca Centrale Russa abbia aumentato i tassi del 6,5%, la crisi valutaria nel paese prosegue e continua a crollare il rublo. In Pakistan un comando dei talebani ha fatto irruzione in una scuola, sono almeno 126 le vittime, tra loro 80 bambini fra i 7 e i 14 anni. Dopo Sydney intanto l'ISIS minaccia: colpiremo ancora. Nessun permesso per Natale o per malattia per i due Marò. La corte indiana decide che Girone non potrà tornare per le feste, come invece è avvenuto l'anno scorso, e la torre dovrà rientrare a New Delhi in gennaio. La beffa natalizia degli alluvionati, le tasse sospese andranno pagate entro il 22 dicembre, il decreto arriva a nemmeno una settimana dalla scadenza. Ed è proprio di questo che parliamo con Paolo Odone, presidente di ASCOM, l'associazione commercianti legata a Confcommercio di Genova e presidente della Camera di Commercio di Genova. Odone, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno agli ascoltatori. Posso immaginare come abbiate accolto la notizia, posto che naturalmente per Genova ha in tutto ciò una piccola fortuna, nel senso che il Comune ha deciso di prorogare il pagamento delle tasse locali a febbraio, quindi rinviare a febbraio il pagamento delle tasse locali, quindi almeno dal lato delle tasse locali avete un po' di respiro, e però le tasse nazionali, è arrivato il decreto del Ministro che decide che il 22 vanno pagate. Eh sì, è veramente un accanimento terapeutico contro dei cittadini che non si sono ancora ripresi, non solo dallo shock, ma hanno appena aperto, tanti devono ancora aprire, tanti stanno pagando, quando le provvidenze che sono state messe a disposizione dalla Regione ne sono state pagate se no l'1 o il 2%, anche se c'è la buona volontà da parte dello Stato, invece sembra che siano cittadini di serie B che non hanno nessun diritto di rispetto dopo quello che è successo, e non è quello che è successo colpa certamente degli operatori economici colpiti. Sono 2.700. Immaginate quindi il tessuto. Ecco, io questo le volevo chiedere innanzitutto, di darci una mappa di quali sono gli esercizi colpiti, una mappa naturalmente non fisica, ma un'idea dal punto di vista dei numeri. Sono 2.700, di cui 1.700 hanno presentato le richieste di rimborso alla Regione, cosa che la Camera di Commercio ha processato con una velocità impressionante, anche se noi non abbiamo un ufficio alluvioni per fortuna, ma ci siamo dati da fare. Sono 1.700 che hanno avuto danni inferiori ai 40.000 euro e quindi possono essere rimborsati. Però dicevo, sotto Natale, con un'atmosfera plumblea che si stava probabilmente un po' rasserenando per questa moratoria sulla parte fiscale, ma anche sugli aiuti che sono stati promessi e non ancora elargiti, vista la massa di aiuti che devono essere dati, purtroppo fa in modo che la gente poi alla fine non avrà i soldi per pagare. La maggior parte dei colpiti dall'alluvione non hanno i soldi per pagare, perché quelli che avevano messo da parte in un periodo di e quindi Odone, molto semplicemente, molti non pagheranno. Se la mia sensazione è quella, perché io incontro la gente per la strada, sono ancora disperati, e questo secondo me è un brutto regalo natalizio anche da un punto di vista psicologico, cioè sembrerebbe che non ci sia attenzione per una parte dei cittadini che sono stati colpiti pesantissimamente nelle loro cose, alle volte non solo per quanto riguarda l'attività, ma anche le automobili, la famiglia, la casa in qualche caso ha avuto problemi. Avete scritto anche una lettera ai parlamentari liguri su questo? Diciamo che la nostra associazione, insieme a tutte le altre, che sono la Confesercenti, la CNA, Confartigianato, gli agricoltori, abbiamo scritto proprio stamattina un messaggio ai nostri rappresentanti a Roma perché si attivino per vedere che non sia possibile fare un provvedimento che tra l'altro lo Stato non sembra costare una cifra così. Rimandare il Comune l'ha fatto fino a febbraio, non penso che fosse una cosa impossibile, quindi non capiamo questo accanimento terapeutico, come dicevo, sembra fatto con veramente scarso amore per i cittadini. Sì, anche se le fanno notare via SMS, Odone, qualche ascoltatore, una piccola sbavatura lessicale, perché ci dicono accanimento sì, ma di terapeutico non si vede nulla. Terapeutico lo dico perché no, terapeutico non lo è, ma terapeutico sembra quasi che ci sia un invito a pagare le tasse anche a chi non lo fa, e questo è il grosso problema del paese. Ma la cosa che voglio dire è che c'è una tale quantità di tasse in questo momento, le aliquote sono altissime, per cui veramente la situazione Odone, pensa che a fronte di tutto questo ci saranno delle aziende che non riapriranno? E sa darmi un'idea di quante? Sì, in realtà, al di là di questo affronto, secondo me, dal punto di vista umano, ci sono parecchie aziende che non ce la fanno. Possiamo stimare almeno un 10%, anche perché alcuni hanno paura di riaprire, di reinvestire in zone che, finché non saranno fatte le opere di messa in sicurezza del territorio, sono soggette, come è stato visto da tante, a 3, 4, 5 eventi alluvionali, basta che piova un pochino di più. E ritiene che, come dire, questo pagamento così ravvicinato possa incrementare questo numero? Ma certamente qualcheduno si scoraggia, ammesso che avesse ripreso coraggio in un momento così difficile, potrebbe anche dire al diavolo non apro più. Grazie a Paolo Odone, presidente dell'Associazione Commercianti di Genova, di Confcommercio, presidente della Camera di Commercio di Genova. Passiamo ad altri argomenti, poi naturalmente dopo, nella seconda parte della trasmissione, torneremo su questa vicenda che ci sta colpendo tutti, che è questo attacco dei talebani ad una scuola in Pakistan, a Peshawar. Ci sono 80 bambini che sono stati uccisi, però adesso ci prendiamo un attimo di argomenti più leggeri, se vogliamo, e parliamo innanzitutto di tecnologia, di quello che andiamo a cercare su internet, o meglio di quello che abbiamo cercato di diverso rispetto all'anno precedente. La decisione di spegnere Google News arriva in risposta ad una legge che dal 1 gennaio 2015 obbligherà chiunque in Spagna pubblichi un link o una breve citazione a pagare un equo compenso all'editore, come ci spiega Simona Panseri di Google Italia. La legge spagnola prevede l'obbligo irrinunciabile anche per gli editori di chiedere un pagamento agli aggregatori di notizie a fronte della pubblicazione di anche piccoli estratti di testo dei loro contenuti. Dal momento che Google News non ha pubblicità e quindi non produce ricavi, il modello per noi non è sostenibile. L'effetto della legge è dunque nullo, poiché i cittadini vengono privati di un servizio utile e gratuito e gli editori non vedranno un soldo. Editori spagnoli che ora chiedono un passo indietro a governo e Parlamento e sperano di poter trattare con Google, ma con poche speranze, perché la vera moneta di scambio che Google News offre agli editori è il traffico che finisce sui loro siti web, che può essere poi monetizzato con la pubblicità. Alcuni editori che si sono volontariamente cancellati dal servizio in altri paesi hanno fatto marcia indietro di fronte al crollo del traffico internet. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito, naturalmente non era il servizio sulle ricerche, ma era il servizio sulla vicenda che riguarda Google News e la Spagna, del quale anche in altre edizioni naturalmente vi abbiamo raccontato. Restiamo a parlare di mass media, ma in questo caso di televisione, perché un terzo dei telespettatori che ieri era davanti alla TV ha visto i 10 comandamenti di Benigni. Più di 9 milioni di telespettatori, pari al 33,23% di share, hanno seguito ieri sera su Rai 1 la prima puntata dello show che Roberto Benigni ha dedicato ai 10 comandamenti. Un grande successo annunciato per il comico toscano, che aveva premesso: due sono le cose stasera, o mi arrestano per vilipendio della religione o mi fanno cardinale. E rivolgendosi anche al pubblico che gremiva il palastudio di Cinecittà, ha affondato così sull'inchiesta Mafia Capitale. Qui stanno girando il film di Natale, intitola Natale a Rebibbia, e ha iniziato così il suo show. Insomma, beh, allora possiamo cominciare. Abbiamo tutti i permessi, siamo in regola, abbiamo avuto il permesso della RAI, il permesso della Questura, il permesso della Banda della Magliana, tutto ci hanno dato. Possiamo cominciare. Allora, sapevano che avrei fatto lo spettacolo sui 10 comandamenti, quindi hanno fatto in modo di violarli proprio tutti e 10. Non si sono fatti mancare niente, io l'ho contati tutti, proprio tutti. Ma mettiamo di parlare della cronaca, siamo venuti per parlare della Bibbia, se no finiamo che parliamo tutta la sera di Rebibbia. Benigni ha ironizzato anche sui politici che si sono giustificati sulla scelta di collaboratori che sembravano insospettabili. Chi l'avrebbe mai detto? Tutte personcine per bene, delicate, oneste, carognone, porco, cegate, lurido, o spaccapollici, o sventramonache, io dico, proprio insospettabili. Ora solo un miracolo ci può salvare. La politica in questo momento non esiste. Per Benigni è meglio dedicarsi ai 10 comandamenti. Fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La borsa russa perde quasi il 20%, il cambio tra rublo ed euro a 100, quello col dollaro ad 80, le mosse della banca centrale di Mosca non bastano. In Pakistan un comando dei talebani ha fatto irruzione in una scuola, sono 126 le vittime, tra loro ci sono 80 bambini. Nessun permesso per Natale o per malattia per i due Marò, la corte indiana decide che Girone non potrà tornare per le feste e la torre dovrà rientrare a New Delhi in gennaio. La beffa natalizia per gli alluvionati, le tasse sospese andranno pagate entro il 22 dicembre. Il direttore generale della manifattura tabacchi di Chiaravalle è stato arrestato insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza per un traffico internazionale di sigarette di contrabbando da 100 milioni di euro. E l'ultima notizia appena arrivata, il ministro del lavoro Poletti ha convocato sindacati e imprese sul Jobs Act, naturalmente sui decreti delegati. La borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata naturalmente dominata da quello che sta avvenendo in Russia, oltre che dal prezzo del greggio che continua a scendere. Milano perde un punto percentuale sul FTSE MIB e lo 0,88% sul FTSE OSHER. In realtà ha oscillato parecchio nel corso della mattinata. Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buongiorno, è così, no? Sì, la borsa si è mossa su e giù rispetto alla parità. Andava benino in mattinata grazie all'ottimismo legato all'indice tedesco ZEV, al di sopra delle attese. Il repentino poi peggiorare della situazione dei mercati russi ha invertito la tendenza, adesso le borse sono tutte in forte ribasso sulla scia, come dicevi, della borsa di Mosca che perde quasi il 20% e del rublo che pare in caduta libera, perde anche lui il 20%. Per comprare un euro oggi occorrono quasi 100 rubli contro i 78 di ieri sera, per un dollaro circa 80 rubli contro i 60 di ieri. E su questo pesa naturalmente anche il prezzo del greggio, meno 3,22% in questo momento il WTI, quello quotato a New York, a quasi a ridosso di quota $54 al barile. Singoli titoli da segnalare, Isabella? Le banche andavano benino stamattina, poi sempre la situazione russa è intervenuta a peggiorare le cose, in particolare per quanto riguarda Intesa e Unicredito, che perdono oltre il 2%. Le due banche sono particolarmente esposte in Russia. Grazie Isabella Tasso, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ci sono due notizie di poco fa che riguardano la politica. Innanzitutto che l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in vista del prossimo Consiglio Europeo. Il documento è passato a Montecitorio con 312 sì, 176 no e 2 astenuti. Da segnalare che Tommaso Currò del Movimento 5 Stelle ha annunciato il voto favorevole alla risoluzione della maggioranza e poi ha annunciato anche la sua uscita dal gruppo del Movimento 5 Stelle, dopo che in mattinata tra l'altro c'era stato una sorta di appello di Renzi proprio ai 5 Stelle, insomma, sul loro progetto politico. Noi adesso però torniamo a parlare di quello che è successo e che sta succedendo questa mattina in Pakistan, dove un comando di talebani ha fatto irruzione in una scuola a Peshawar, al confine con l'Afghanistan. Tra l'altro, dopo quasi 7 ore, l'attacco dei talebani è ancora in corso. Il numero di vittime viene aggiornato costantemente, sono 132. Ci sono almeno 80 bambini tra i 7 e i 14 anni. I racconti ve li abbiamo fatti sentire in apertura, vi abbiamo fatto sentire in apertura uno di questi racconti, è quello di un bambino che dice: l'esercito è entrato nella scuola, ci ha scortati fuori, ma mentre usciva abbiamo visto i corpi dei nostri amici nei corridoi. I talebani stessi che dicono, a fronte degli attacchi portati dall'esercito pakistano agli stessi talebani, abbiamo scelto l'obiettivo da colpire con il nostro attentato, il governo sta prendendo di mira le nostre famiglie e le nostre donne, vogliamo che provino lo stesso dolore, così i talebani. Andrea Carati è un ricercatore dell'ISPI, esperto di sicurezza di Afghanistan. Buongiorno Carati e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, vorrei capire che cosa rappresenta questo attacco, al di là dell'ovvio orrore che possiamo provare tutti noi di fronte ad un attacco che avviene all'interno di una scuola. Ma come ha accennato lei in apertura, l'attentato va inquadrato in una lotta più generale fra il governo centrale pakistano e i talebani concentrati nelle aree al confine con l'Afghanistan, nelle aree tribali in particolare. nel nord del Waziristan. Infatti l'attentato per i talebani è interpretato come una rappresaglia alla campagna militare che il governo pakistano ha lanciato quest'estate nel nord Waziristan, appunto per contrastare i talebani, per contenerli, insomma, per indebolirli. Ne accennavamo già in apertura con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Vorrei su questo sentire anche la sua opinione. Si diceva con Alberto Negri che il fatto che questo attacco sia una risposta a quello che sta facendo il governo, appunto, per contrastare la minaccia dei talebani stessi, possa rappresentare o segnare una sorta di segnale di debolezza dei talebani stessi. È così, o quella zona è talmente complessa da non poter fare un ragionamento di questo genere? Ma in parte condivido l'analisi, nel senso che la modalità dell'attacco, il fatto che erano un piccolo gruppo e la necessità di colpire un obiettivo, certo una scuola militare, ma anche un obiettivo tra virgolette facile, colpendo peraltro bambini, insomma un obiettivo particolarmente facile, dà l'idea di un chiaro segnale di debolezza. Per altri versi però, benché il Pakistan non sia nuovo ad attentati di questo tipo, segnala che i talebani, la partita che giocano non solo in Afghanistan ma in Pakistan, è forte. Infatti i talebani, dopo l'intervento americano in Afghanistan, quando si sono riversati nelle aree tribali in Pakistan, hanno in qualche modo mutato pelle e hanno introdotto nei loro obiettivi politici non soltanto la conquista del potere o la riconquista del potere a Kabul, ma anche vogliono giocare un nuovo ruolo politico in Pakistan. Io credo che da questo punto di vista in realtà questo attentato, come dire, mette una bandierina nella campagna che, e nel ruolo che in generale i talebani hanno voglia di giocare nel futuro del Pakistan. Ha qualcosa a che fare il fatto che si sia scelto in una scuola, al di là della questione più puramente politica che abbiamo trattato fino adesso, questa, vogliamo chiamarla, avversione dei talebani nei confronti dell'educazione, per così dire, per come la intendiamo noi, secondo lei, Karati? Noi siamo reduci questa settimana dalla consegna del Nobel a Malala Yousafzai, che è diventato un simbolo, no, della lotta per l'educazione alle donne. Ecco, vorrei capire se ha qualcosa a che fare con tutto questo o no. No, io non credo, per due ragioni. La prima ha a che fare con col fatto a cui accennavo brevemente prima. I talebani che stanno in Pakistan sono diversi dai talebani degli anni 90 che erano in Afghanistan. E in secondo luogo perché giocano una partita politica più varia. I talebani, almeno quelli tradizionali, quelli della prima ora, per quanto paradossale possa sembrare, erano quasi disinteressati alla politica e per certi versi anche all'educazione. I talebani invece pakistani si percepiscono in modo crescente come un partito politico e anche potenzialmente mettono in conto di poter partecipare a competizioni elettorali e quindi hanno una sensibilità verso il consenso e, se vogliamo, quindi anche l'educazione molto più diversa e, se vogliamo, raffinata rispetto ai talebani della prima ora. E mi scusi, e questo si manifesta nell'entrare in una scuola? No, beh, ovviamente no. Il mio ragionamento è che l'attacco alla scuola, secondo me, va inquadrato più in una lotta politico-militare che si sta giocando in Pakistan, ma non è un attacco a una scuola, appunto perché è una scuola e quindi si attacca un'istituzione di educazione. Quindi lei dice non è un attacco religioso, per così dire, insomma, con una matrice religiosa? Credo il cuore del contendere sia più di carattere politico-strategico nell'avere un ruolo nella politica del Pakistan e continuare a utilizzare il Pakistan come, diciamo, trampolino di lancio per l'insurrezione poi che è in corso in Afghanistan. Però ecco, non lo inquadrerei in una vecchia logica che invece è valida per i talebani degli anni 90, che era una lotta principalmente religiosa, una lotta per la conquista del potere, certo a Kabul, ma una lotta anche contro i costumi, eccetera. Come dicevo prima, i talebani pakistani hanno anche una sensibilità politica del tutto nuova. Del tutto nuova. Quindi Senta Carati, le volevo fare un'ultima domanda ed è questa. Naturalmente stanno piovendo, come ovvio in questo caso, una serie di messaggi di cordoglio e di orrore da tutta la comunità internazionale, come è perfettamente normale. Ha già parlato il premier inglese Cameron, ha parlato il nostro presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma c'è qualcosa che il mondo effettivamente può fare, oppure non c'è nient'altro che da assistere a questa situazione? Ma il mondo inteso come comunità internazionale in questo caso, naturalmente, prego. Sì, ma allora le leve più forti in Pakistan ce le hanno gli Stati Uniti, e come dire, le pressioni internazionali sul Pakistan possono fare le grandi potenze, in particolare gli Stati Uniti. Se non che per gli Stati Uniti il Pakistan è un alleato scomodissimo, però è un alleato con cui gli Stati Uniti devono in qualche modo tenere dei rapporti, soprattutto per il futuro del Pakistan, dell'Afghanistan dopo il ritiro internazionale, per evitare che almeno l'Afghanistan per qualche anno non precipiti in un caos totale e come dire, faccia fallire del tutto l'intervento americano degli ultimi anni. E poi è stato un alleato di lungo periodo nella lotta contro il terrorismo e se vogliamo questa lotta che contro i talebani nel territorio pakistano è inquadrato in questa ottica. Quindi, come dire, una pressione che può fare la comunità internazionale, in particolare, ripeto, gli Stati Uniti, ma entro i limiti dei calcoli strategici degli Stati Uniti stessi. Grazie Andrea Carati, ricercatore dell'ISPI. Io vi do un'ultima notizia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, e riguarda informazioni che arrivano dal Quirinale, che riguardano la vicenda dei due Marò. Come vi abbiamo raccontato, non avranno, ha deciso una corte indiana, nessun permesso per Natale o per malattia, quindi Girone non tornerà in Italia per Natale. La Torre dovrà rientrare a Nuova Delhi in gennaio, i due fucilieri di Marina naturalmente accusati dall'India di aver assassinato due pescatori. Ebbene, il capo dello Stato fa sapere di essere fortemente contrariato dalle notizie in India e resterà in stretto contatto col governo su queste vicende. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi cominciano le riunioni della Federal Reserve, dunque ne parleremo poi domani. Chiaramente c'è sempre molta attesa, l'idea è che la Federal Reserve dia ulteriori conferme, togliendo magari un aggettivo, al fatto che i tassi di interesse resteranno su questi livelli, ma non per tempi eccessivamente lunghi. Quindi prima o poi nel corso del 2015, forse in aprile, forse in giugno, ci sarà questo giro di boa. Ma non voglio parlare oggi di economia, preferisco restare sulla tradizionale solo andata e un po' sulla cultura. Io riguardo Marinetti dico sempre che lui è stato Warhol prima che ci fosse Warhol, e quando ha lanciato il primo manifesto ha inventato un'avanguardia. Vivian Green, la curatrice del Guggenheim Museum, che ha organizzato, allestito la mostra sul futurismo che si è chiusa da poche settimane, è stata una delle mostre più importanti dell'anno qui a New York, dedicata all'arte italiana. Arte italiana, devo dire, che qui in America ha lasciato il segno. La settimana scorsa, qui a New York, sempre dedicato all'arte italiana contemporanea, c'è stato un incontro per la presentazione di un libro dedicato a 60 artisti italiani under 35, quindi sotto i 35 anni, organizzato dalla Quadriennale di Roma. Ed è venuto il presidente della Quadriennale, Yash Gavronsky, che oltre a dedicarsi adesso alla filantropia, è un grande giornalista. Buongiorno Yash. Buongiorno. Ecco, Yash è con noi qua in linea. Intanto Yash, voglio sapere a te, insomma, che atmosfera hai trovato nei confronti diciamo di questa arte italiana contemporanea. C'è notato che c'è molto interesse per l'Italia e per l'arte italiana, molto interesse, non tanta conoscenza, diciamo, c'è quindi curiosità, c'è voglia di scoprire, mancano un po' gli elementi per approfondire questa conoscenza. E poi venendo qui ci si rende conto come il mondo dell'arte in Italia e negli Stati Uniti sono due mondi completamente diversi. Ecco, perché diversi, in che modo? Ma perché